Casa mia ormai è vuota. C'è dentro giusto il necessario per viverci ancora qualche giorno. Se mi guardo intorno però è praticamente deserta. Ieri sera stavo sistemando le ultime cose, separando quelle da spedire agli acquirenti da quelle da restituire ai proprietari. È incredibile come le nostre case siano piene di cose che appartengono ad altre persone. Oggetti che ci hanno prestato quando ci servivano, ad esempio, ma anche quando non avevamo alcun bisogno. Tipo DVD mai visti, libri mai restituiti per non aver avuto il coraggio di dire che non li avevamo letti. E poi dischi, videogiochi, ma anche ombrelli presi in prestito in giornate di pioggia. O una t-shirt che ci siamo tenuti dopo che la nostra era diventata fradicia per una partitella improvvisata. Allora ho preso una busta nera di quelle per l'immondizia e ci ho infilato dentro tutte le cose che non erano mie e che non potevo vendere. E un giorno, quando tutto questo sarà finito, organizzerò una festa in cui inviterò gli amici a cui devo restituire tutti questi oggetti. Dopo aver archiviato le cose non mie, mi sono seduto in mezzo al soggiorno e sono rimasto lì, a sentire il vuoto intorno a me. Se si sta in silenzio in una casa di città, i rumori che si sentono sono un'infinità. Tipo la chiave nella serratura di una porta al piano di sopra, un ragazzo che parla al telefono nell'appartamento a fianco, oppure il tram che passa poco lontano, ma anche l'acqua che scorre nelle tubature, e poi un silenzio di fondo che ti frigge nelle orecchie. È un silenzio strano, perché è quello della città, ma è anche quello di una casa senza più nulla dentro che attutisca i suoni. Io allora ho sciolto le gambe che avevo incrociato e mi sono sdraiato a terra. E mentre guardavo il muro davanti a me, ho notato il segno bianco lasciato da un quadro sulla parete. Io guardavo quel rettangolo bianco, però non mi veniva in mente che quadro fosse stato appeso lì per anni, in quel punto esatto. E lì ho capito che stavo iniziando ad abituarmi. Stavo iniziando a non sentire più la mancanza delle cose. La TV, il divano, il tavolo, le sedie, il letto, la scrivania, tutto ciò che prima possedevo che mi sembrava indispensabile. Ecco, adesso, piano piano, non mi interessava più. Anzi, di alcune cose avevo già dimenticato la forma, la dimensione, perfino l'ultima volta che le avevo usate. Poi mi è venuto in mente che quel rettangolo bianco lì non era stato lasciato da un quadro, ma da una foto. Una foto che odiavo, in realtà, perché le foto appese in casa non mi sono mai piaciute. Una foto in cui eravamo io e Giulia. Solo che cominciavo a non ricordare più dove eravamo, come eravamo vestiti e che espressione avessimo. E questo mi rese immensamente felice.